Fatta. Allora, questa era la rubrica della nostra Cristina Techno Stories. E per concludere questa sera rientriamo con la rubrica Metal Zone e andiamo ad analizzare un altro dei generi che ci abbiamo in canna. Allora, avendo ripercorso un ordine cronologico, l'ultima volta avevamo affrontato il tema dell'epic metal nato a metà degli anni Ottanta. Adesso ci spostiamo, diciamo, tra metà degli anni 80 e fine anni 80, con un genere che prese piede parecchio a cavallo tra Nord Europa e Stati Uniti orientali. Allora, questo è il death metal. Death metal si capisce dalla parola stessa, insomma, atmosfere cupe e diciamo un suonato, uno strumentale molto elaborato. E ecco, giusto per dare un'idea, i precursori provenienti dal thrash furono ad esempio gli Slayer. Si sente insomma come dal thrash si accostano verso il death metal. Insomma, dopo gli Slayer abbiamo i padri fondatori che hanno cominciato a fare solo esclusivamente questo genere, e questi sono i Carcass. Carcass nascono nell'85 a Liverpool, in Inghilterra, e sono annoverati come, diciamo, padri fondatori del genere vero e proprio. E adesso ci andiamo a sentire qualcosuccia loro e poi continuiamo con le spiegazioni. Allora, la traccia che ho in canna adesso si chiama Corporal Jinxtor Quandary. A voi. Visible identification is not possible, the pathologist may be able to take fingerprints from the body, but if decay has set in, things become more complicated. Amici di nuovo, ragazzi, in onda con il dissolvimento in Corporal Jigsaw Quandary dei Carcass. Questo viene dell'album Necrolosing e sempre dello stesso album ne mettiamo anche un'altra, qui siamo praticamente a inizio anni 90, calcolando che il gruppo si consacrò esattamente nel 93 con l'album Earthwork, questi sono lavori precedenti. Allora ci andiamo a sentire pure l'altra. Eccoci di nuovo in onda, ragazzi. Allora, questi erano i Carcass, i padri fondatori del genere. Possiamo benissimo notare l'utilizzo del growl, i temi estremamente grevi come necrofilia, con attenzione verso l'anatomia umana e tutte queste cose. Questi sono i temi fondamentali del death metal, come dice la parola stessa. Adesso passeremo ad un altro dei grandi gruppi che ha fatto la fortuna di questo genere. Passiamo a Buffalo negli Stati Uniti, nei esattamente primissimi, fine anni 80, qui siamo nell'88. Allora, l'88, questi sono i Cannibal Corpse. Cannibal Corpse escono praticamente dalle ceneri di tre precedenti gruppi, ecco, i nuovi componenti hanno fondato questo gruppo. Il prossimo pezzo che sentiremo si chiama esattamente I Come Blood, e questo dice tutto. Torniamo in onda qui a Radio Risacca, la radio che spacca, e praticamente questa era I Come Blood dei Cannibal Corpse, un pezzone tecnico da morire, avete sentito? Spacca tutto. Allora, questa è estratta dall'album Tomb of the Mutilated. Poi andiamo appresso all'album invece Torture. Prendiamo sempre per lo stesso gruppo Scourge of Iron. Torniamo in onda, ragazzi. Allora, questo era Scourge of Iron dall'album Torture dei Cannibal Corpse. Adesso facciamo una differenza. Quello che abbiamo sentito finora, i due gruppi precedenti, fanno parte di quello che è il death metal più puro, si sente, insomma. Adesso passiamo con i due gruppi seguenti ad un altro tipo di death metal che è stato definito melodic death metal. Quindi i gruppi seguenti sono Dark Tranquillity e Children of Bodom, e i primi che metto sono i Dark Tranquillity per ordine, insomma, di nascita. Stiamo nel 1989 in Svezia, a Göteborg, e da lì esce questo lavoretto che si chiama Phantom Days. Poi approfondiamo. A voi. Make it any less real. torniamo in onda su Radio Risacca. Allora, questa era Phantom Days dei Dark Tranquillity. Allora, ogni tanto come si mettono i pezzi vecchi per capire le strutture dei generi, come si mettono anche i pezzi nuovi per capire come la musica si evolve negli anni. Specialmente di questo gruppo mi è piaciuto trarre dei pezzi molto recenti. Ad esempio, questo pezzo viene dall'album Moment del 2020 e il pezzo seguente, Misery's Crown, viene dall'album oddio, non mi torna in mente, datemi un attimo. Fiction, ecco come si chiama. Fiction del 2007. A voi. Torniamo in onda di nuovo e questa era Misery's Crown dei Dark Tranquillity, lavoro recente del 2007. Allora, adesso per concludere il discorso sul melodic death metal, andiamo a mettere un gruppo che è stato all'epoca simbolo, mi dispiace dover dire, dei gruppi di stasera. Questi sono, purtroppo, hanno smesso, non suonano più. Allora, questi sono i Children of Bodom. Penso che tutti avrete saputo e sentito parlare del motivo del loro nome. Che cos'è Bodom? Che cos'è questo posto? Praticamente Bodom è il nome di un lago in Finlandia, presso il quale anni fa avvenne un barbaro pluriomicidio. Praticamente quattro ragazzi in tenda a campeggiare lì furono trovati, allora, tre all'interno morti e uno fuori dalla tenda gravemente ferito. E quindi niente, questo gruppo prende il nome da questo posto dove è accaduta questa faccenda, lago di Bodom in Finlandia. Quindi questi sono i Children of Bodom, finlandesi loro stessi, originali di Espoo, e hanno cominciato nel 1993. Allora, la prima canzone vi presento stasera si chiama War Heart. Why, but I'm not sorry. piaciuta la musichetta, raga. Allora, eccoci di nuovo qui. Sanderino è con voi e ci siamo appena ascoltati Warheart dei Children of Bodom. Di questo gruppo ho estratto due tracce dallo stesso album perché, diciamo, è molto emblematico. Questo album si chiama Hatebreeder. E dallo stesso ci andiamo a sentire anche Black Widow. Eccoci qua di nuovo sullo sfumare di Black Widow dei Children of Bodom. Finiamo la puntata sul death metal stasera. Ora vi lascerò in compagnia di un altro amico con altre contaminazioni musicali. Qui era Sandrino, speriamo di risentirci presto. Scusate per i problemi ultimamente, può succedere. E anche, ragazzi, permettetemi di correggere una cosa di inizio puntata. Mi sono sbagliato leggendo e il nome che ho dato alla prima traccia dei Carcass è il nome in realtà della seconda e viceversa, ok? Allora, ragazzi, di nuovo ciao a tutti, un abbraccione, un bacione e a prossimamente, bella!